Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Una volta per strada, Duroy si sentì triste, scombussolato, tormentato dall'oscura sensazione d'un cruccio misterioso. Come suonarono le tre, infilò la grande scala pubblicitaria della Vie Française. I fattorini se ne stavano in attesa, seduti su una panca, a braccia conserte, mentre un usciere, dietro una specie di piccola cattedra scolastica, smistava la posta appena giunta. La messa in scena era perfetta per far colpo sui visitatori. Tutti lì erano pieni di contegno, di sostenutezza, di decoro e di stile, come si conviene nell'anticamera d'un grande giornale. Duroy chiese: «Il signor Voltaire, per favore!» L'usciere rispose: «Il signor direttore è in riunione, se vuole accomodarsi un momento!» E gli additò il salottino d'attesa, già pieno di gente. A Duroy venne allora un'ispirazione. E tornato dall'usciere: «Il signor direttore m'aveva dato appuntamento per le tre. Veda un po' comunque se c'è il mio amico Forestier.» Fu introdotto in un lungo corridoio che lo condusse in uno stanzone, dove quattro tizi stavano scrivendo su un vasto tavolo verde. Forestier, in piedi davanti al camino, fumava una sigaretta, giocando con un bel bocchetto. Era abilissimo e infilava ad ogni colpo l'enorme palla di bosso giallo nel piccolo puntale di legno. Contava 22, 23, 24, 25, Duroy fece 26, e l'amico lo guardò senza interrompere il moto cadenzato del braccio. «Ah, sei qui! Vieni con me. Ti ci accompagnerò io dal direttore, senza che tu debba mettere i pinci qua, magari fino alle 7. Spinte due porte imbottite, entrarono dal direttore. La riunione, che durava ormai da un'ora, consisteva in una partita d'écarté con alcuni di quei signori dal cappello a tese piatte che Duroy aveva notato il giorno prima. Voltaire teneva ferme in mano le carte e, concentrandosi, giocava attento, con gesti cauti, mentre l'avversario buttava, prendeva, maneggiava i leggeri cartoncini colorati con l'agilità, la destrezza, l'eleganza del giocatore consumato. Norbert de Varenne stava scrivendo un articolo seduto sulla poltrona direttoriale e Jacques Rival, allungato sul divano, fumava un sigaro con gli occhi chiusi. Si sentiva lì dentro un tanfo di rinchiuso, la fror di cuoio dei mobili, il puzzo del tabacco invecchiato e della tipografia, quel particolare sentore delle redazioni ben noto a tutti i giornalisti. Forestier strinse la mano ai cronisti, che in piedi dietro i giocatori scommettevano su di essi, e senza dire una parola prese a seguir la partita. Poi, come zio Voltaire ebbe vinto, presentò il suo compagno d'armi. «Ecco qua, Duroy, il mio amico!» Il direttore osservò brusco il nostro giovanotto con una delle sue occhiate di sulle lenti e domandò: «Me l'ha portato l'articolo?» Duroy cavò di tasca i fogli piegati in quattro. «Eccolo!» Il principale parve rallegrarsi molto e disse sorridendo: «Benone, benone, è stato di parola. Devo darci un'occhiata, Forestier?» Forestier s'affrettò a rispondere: «Non ce n'è bisogno, signor Voltaire. L'ho aiutato io a scriverlo per insegnargli il mestiere. Va benissimo.» Il direttore stava già prendendo le carte da un tizio alto e magro, un deputato del centro-sinistra, e aggiunse con indifferenza: «Quando è così?» Ma Forestier non lo lasciò cominciare la nuova partita e, chinatosi al suo orecchio, ricorderà di avermi promesso d'assumere Duroy al posto di Marambeau. Devo far con lui le stesse condizioni?» «Ma certo, certo.» Prendendo il braccio dell'amico, il giornalista lo trascinò con sé mentre Voltaire si rimetteva a giocare. Appena tornati in redazione, Forestier prese subito il suo bilbocchetto e, rimettendosi a giocare e smozzicando ogni frase per contare i colpi, disse a Duroy: «Tu verrai qui tutti i giorni alle 3 e io ti dirò le commissioni e le visite che dovrai fare, sia nel pomeriggio, sia alla sera, sia al mattino, e uno. Intanto ti darò una lettera di presentazione per il capo di gabinetto della questura e due, che ti metterà a contatto con un suo impiegato. Tu te la sbroglierai con quello per tutte le notizie importanti e tre, relative alla questura, le notizie ufficiali o quasi, si capisce. E per i dettagli potrai rivolgerti a Saint-Potin, che è al corrente, e quattro. Ah, lo vedrai fra poco, o domani. Dovrai anzitutto abituarti a far cantare la gente che andrai a trovare, e cinque, e a infilarti dovunque, nonostante le porte chiuse, e sei. Ti beccherai per questo un mensile fisso di 200 franchi, più due soldi a riga per le notizie interessanti di tua propria produzione, e sette. Nonché altri due soldi a riga per gli articoli d'argomento vario che ti verranno richiesti, e otto. Duroy beve un bicchiere coi suoi nuovi colleghi. Poi domandò all'amico: «Che c'è da fare?» L'altro rispose: «Per oggi non ho da darti niente. Puoi andartene se vuoi. E il nostro articolo andrà in macchina stanotte?» «Sì, ma non preoccuparti. Correggerò io le bozze. Prepara il seguito per domani e vieni alle 3 come oggi.» E Duroy, dopo aver stretto tutte quelle mani senza nemmeno conoscere il nome dei loro proprietari, ridiscese le sfarzose scale col cuore traboccante di gioia, pieno di euforia. Georges Duroy dormì male, eccitato dalla voglia di vedere stampato il suo articolo. Come fu giorno si alzò e già bighellonava per la strada ancor prima che i distributori di corsa avessero portato i giornali da un'edicola all'altra. Raggiunse la stazione Saint-Lazare, sapendo che la Vie Française vi sarebbe giunta prima che nel suo quartiere. Vide arrivare la giornalaia, che aprì il suo botteghino a vetri. Poi scorse un uomo con in testa un pacco di giornali piegati. Si precipitò. C'era il Figaro, il Gil Blas, il Gaulois, l'Evenement e due o tre giornali del mattino, ma la Vie Française no. Gli venne un dubbio. E se i ricordi d'un cacciatore d'Africa li avessero rimandati all'indomani? E se all'ultimo momento, putacaso, non fossero piaciuti a zi Walter? Tornando verso il chiosco, s'accorse che il giornale era in vendita senza che lui l'avesse visto portare. Si precipitò a comprarlo. Lo spiegò dopo aver buttato là i suoi 15 centesimi e diede una scorsa a tutti i titoli della prima pagina. Nulla. Cominciò a battergli il cuore. Aprì il foglio e provò una grande emozione, leggendo a piedi una colonna in grassetto: «Georges Duroy». C'era! Che gioia! S'avviò senza più pensare a nulla, col giornale in mano, il cappello sulle 23, e una gran voglia di fermare i passanti e dir loro: «Comprate, comprate questo, c'è il mio articolo!» Avrebbe voluto urlare con quanto fiato aveva, come fanno gli strilloni la sera sui boulevard: «Leggete la Vie Française! Leggete l'articolo di Georges Duroy! Ricordi d'un cacciatore d'Africa!» E d'un tratto gli venne voglia di leggerlo lui stesso l'articolo, di leggerlo in qualche locale pubblico, in un caffè ben in vista, e ne cercò uno che fosse già affollato. Dovette trottare un bel po'. Finalmente si sedette all'esterno d'una specie di bottiglieria dove c'erano già parecchi avventori e chiese un room, come avrebbe chiesto magari un assenzio, senza pensare all'ora. Poi chiamò: «Cameriere, mi dia la Vie Française». Accorse un uomo in grembiule bianco. «Non l'abbiamo, signore. Riceviamo soltanto il rappel, il siècle, la lanterne e il petit parisien». Adirato e indignato, Duroy gridò: «E che cavolo di stamberga è questa? Su, vada a comprarmela!» Il cameriere andò di corsa e gliela portò. Duroy si mise a leggere il suo articolo, esclamando più volte ad alta voce: «Molto bene, molto bene!» per richiamare l'attenzione e far venire anche agli altri la voglia di vedere cosa mai ci fosse in quel foglio. Poi se ne andò, lasciandolo sul tavolino. Il padrone se ne accorse e lo richiamò. «Signore! Signore, si è dimenticato il giornale!» Duroy rispose. «Lo tenga pure, l'ho già letto. C'è una cosa molto interessante oggi, vedrà!» Non precisò che cosa, ma vide, andandosene, uno degli avventori prendere la vie française dal tavolo dove l'aveva lasciata. Pensò, e adesso che faccio? Decise d'andarsene in ufficio a riscuotere lo stipendio e a dare le dimissioni. Già non stava più nella pelle, pensando alla faccia che avrebbero fatto il capufficio e i colleghi. Gongolava soprattutto, figurandosi lo sbalordimento del capoccia. Duroy uscì per andar dal capufficio, poi si recò al giornale. Forestier lo ricevette stando tutto sulle sue come si fa con un inferiore. «Ah, sei venuto, bravo! Ho giusto appunto parecchie cosette da farti fare. Aspetta 10 minuti, devo prima finire qua». E continuò una lettera che aveva cominciata. All'altro capo dell'ampio tavolo, un ometto pallido pallido, grasso e tondo, pelato, con un cranio bianco e lucido come avorio, stava scrivendo col naso sul foglio, tant'era spudoratamente miope. Forestier gli chiese: «Dì un po', Saint-Potin, a che ora vai a intervistare i nostri tizi?» «Alle 4.» «Porta con te il giovane Duroy qui presente. Gli svelerai gli arcani del mestiere». Rivolgendosi all'amico, Forestier aggiunse: «Hai portato il secondo pezzo sull'Algeria? Il primo di stamani ha avuto molto successo». Duroy, confuso, balbettò: «No, pensavo di trovare un po' di tempo nel pomeriggio. Ho avuto un fottio di cose da fare. Non ho potuto». L'altro diede un'alzata di spalle scontento. «Devi essere più puntuale, caro mio, se no addio a venire. Walter ci contava sul tuo articolo. Gli dirò che sarà pronto per domani, ma se credi d'essere pagato per startene con le mani in mano, ti sbagli». Saint-Potin si alzò. «Io sono pronto», disse. Allora Forestier, abbandonandosi all'indietro sulla sedia, assunse un tono quasi cattedratico nell'impartire le sue istruzioni e, rivolto a Duroy, disse: «Dunque, abbiamo qui a Parigi da 2 giorni il generale cinese Li Teng Fao al Continental e il Maharaja Tapo Sahib Ramaderao Pali all'Hotel Bristol. Andrete a intervistarli». Quindi, rivolto a Saint-Potin, raccomandò: «Non dimenticare i punti principali che t'ho indicato». Per Duroy aggiunse ancora: «Osserva bene come fa Saint-Potin, è un ottimo reporter, e cerca di capire le astuzie per far vuotare il sacco a un uomo in 5 minuti. Appena fuori dall'uscio, Saint-Potin si mise a ridere e disse a Duroy: «Bel pallone gonfiato, sì. La viene a raccontare proprio a noi come se fossimo dei suoi lettori». S'avviarono per il boulevard e il cronista domandò: «Beve qualcosa?» «Sì, volentieri, fa un caldo». Entrarono in un caffè e si fecero servire 2 bibite ghiacciate. Saint-Potin diede la stura alla sua chiacchiera. «Il principale? Un vero ebreo. E gli ebrei, lei lo sa, nessuno riuscirà mai a cambiarli. Che razza di gente!» E sfoderò esempi di incredibile avarizia, di quella particolare avarizia di cui soltanto i figli di Israele sono capaci. «E con tutto ciò», proseguì, «un bel tipo che non crede a nulla e la fa in barba all'universo intero. Il suo giornale, che è ufficioso, cattolico, liberale, repubblicano, orleanista, albero della cuccagna e bottega del buon vantaggio, è stato fondato solo per tener su le sue operazioni di borsa e i suoi intrallazzi d'ogni genere. Da questo lato Valtera è un cannone e riesce a guadagnare milioni con società che non hanno quattro soldi di capitale. Il reporter poi passò a parlare della signora Valtera. Un'ocona, ma di quelle. Di Norbert de Varenne, vecchio imbrattacarte fallito, di Rival, una riedizione di Farvac. Infine fu il turno di Forestier. Quanto a costui, può dirsi fortunato d'aver sposato sua moglie. Ecco tutto. Duroy domandò: cos'è di preciso sua moglie? Saint-Potin si diede una stropicciatina di mani. Ah, una donna senza scrupoli, una gran furbacchiona. È l'amante d'un vecchio smidollato, certo Vaudrec, il conte de Vaudrec, che le ha dato una dote e un marito. Duroy sentì all'improvviso un brivido nella schiena, una specie di contrazione nervosa, un bisogno di svillaneggiare e di schiaffeggiare quella malalingua. Ma si limitò a interromperlo chiedendogli: «Lei si chiama proprio Saint-Potin?» L'altro rispose con semplicità: «No, mi chiamo Thomas. Saint-Potin è un nomignolo che m'hanno affibbiato al giornale.» Duroy, pagando le consumazioni, fece: «Mi sembra tardi. Dobbiamo ancora intervistare quei due popò di personaggi.» Saint-Potin si mise a ridere. «Lei è ancora un ingenuo. Ma via! Crede davvero che io me ne vada a chiedere a quel cinese e a quell'indiano cosa ne pensano dell'Inghilterra? Come se io non sapessi meglio di loro quel che devono dire per i lettori della Vie Française. Ne ho già intervistati un mezzo migliaio di cotesti cinesi, persiani, indù, cileni, giapponesi e via dicendo. Rispondono tutti l'identica cosa sulla base di quel che voglio io. Non ho che da riprendere l'articolo sull'ultimo che è venuto qui e ricopiarlo parola per parola. Di diverso, semmai, non c'è che la loro faccia, il nome, i titoli, l'età, il seguito. E a questo proposito, devo stare attento a non prender cantonate, sarebbero istantaneamente sottolineate dal Figaro o dal Gaulois. Ma su questo punto mi basterà parlare 5 minuti col portinaio dell'Hotel Bristol o con quello del Continental per essere perfettamente informato. Ecco, caro mio, come si fa quando si ha una certa pratica.» Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.